Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E alla fine mi ci sono ficcata in questa cosa. Ne avevo una paura tremenda, ma l'ho fatta. Semplicemente non volevo passare il Natale tra panettoni e palline colorate. E così, vai, un click, una prenotazione a scatola chiusa e via, per uno di quei viaggi dove incontri il resto del gruppo in aeroporto. Mi chiamo Gabriella, ho quasi 34 anni, vivo in un piccolo paese su di una collina tra Langhe e Roero e faccio l'insegnante. È mercoledì, è il 28 di dicembre del 2011 ancora, giusto, il 12 è tra pochi giorni. Oggi si parla di questa roba che effettivamente capita spesso, no? Adesso è passato, era 3 giorni fa e uno quasi non ci pensa più. Però sapete, c'è una categoria di persone che quando si avvicina il Natale comincia a dire quanto lo odia, quanto vorrebbe essere altrove, quanto non vorrebbe fare pranzi, cene, tutte quelle robe lì. Ecco, c'è qualcuno che di fatto poi lo fa, cioè lo fa nel senso che prende e se ne va. È il caso di Gabriella e della storia che ci ha mandato. In realtà lei questa storia ce l'aveva mandata tempo fa e non l'abbiamo messa lì nel cassettino e abbiamo detto questa ce la facciamo i giorni di Natale. 349-238-6666 oppure voi siete qui @radio24.it. C'è anche un profilo Facebook, è sempre quello, dove già sono arrivati dei messaggi, una roba alla volta, però il profilo Facebook è Matteo Caccia. Io sono qui. Paola mi ci scrive: io sono scappata dal Natale di casa mia e mi sono infilata in casa del mio fidanzato e ho scoperto che c'è un altro modo per festeggiarlo senza fronzoli, senza regali, senza troppo cibo. E con cosa allora, se non ci sono i fronzoli, se non c'è il cibo, se non ci sono i regali? Pier, io non ho e poi appunto ci sono quelli che invece nel Natale ci stanno comodi e ci vogliono stare. Pier, non ho nessuna voglia di fuggire dal Natale, mi piace così com'è. Trovo patetici tutti quelli che cercano di dribblarlo, come pensare di giocare a biglie senza la sabbia. Boh, questa metafora non l'ho esattamente capita, ma tant'è. Ettore: 2 anni fa io ho preso un biglietto per Buenos Aires, il 23, e il 24 sono partito per una settimana. Non avevo nient'altro che la mia Lonely Planet e una borsa con il necessario. Ci sono rimasto 1 anno e mezzo, lavorando come barman e come cameriere. Invece che un Natale ne ho saltati 2 e ora sono tornato con una moglie e un bimbo di 4 mesi. Ale! 349-238-6666. Io non ricordo se ve l'ho già raccontato, ma qualche giorno fa mi hanno invitato, prima, questa roba succedeva prima di Natale, mi hanno invitato ad una vendita di oggetti, non so se era legato al fatto che 3 anni fa, 2 anni fa ho venduto tutto, semplicemente succedono delle cose nelle grandi città soprattutto, mi dicevano, un po' meno nei paesi. È morta un'anziana signora che viveva in una zona di Milano vicino a Piazza 5 Giornate, per chi la conoscesse. Viveva in un vecchio appartamento di un grande vecchio edificio, proprio primi del secolo milanese, uno di quei palazzi che ti chiedono 5.000 euro al metro quadro. Questa signora è mancata, era una signora anziana molto benestante e i parenti, credo la figlia, mi pare, io quando ci sono passato da quella casa la figlia non c'era nessuno, c'era solo chi si occupava di questa vendita. Hanno deciso di vendere tutto quello che lei aveva in casa. Credo che venderanno anche l'appartamento, ma tant'è, non sono fatti miei. Vendevano i mobili, vendevano le coperte, vendevano le stoviglie, i piatti, vendevano i pochi elettrodomestici che c'erano e vendevano anche i libri. Tra i libri io ho trovato un diario di questa signora, di cui non farò il nome perché non mi sembra il caso farlo. È un diario però la cui prima pagina è datata 31 ottobre 1924. Ci sono più o meno, credo che fosse un compito di fatto, credo che a scuola, alle scuole elementari, forse in prima o in seconda elementare, quindi questa donna aveva, sì, probabilmente aveva 7-8 anni, sì, forse più avanti che la prima elementare, direi, forse quarta o quinta, anche perché è scritto nella tipica grafia delle nonne, però che hanno imparato da bambine, quindi è una bambina che scrive come un'anziana, più o meno, per dirla facile. Insomma, c'è tutto il diario della sua dei suoi primi giorni di scuola e arrivano fino a giugno, e a un certo punto c'è una pagina che viene scritta pochi giorni prima di Natale, è il 23 di dicembre del 1924. Oggi è l'ultimo giorno di scuola perché abbiamo 5 giorni di vacanza per le feste natalizie. Io sono contenta che si avvicini il Natale. Quest'oggi ci siamo molto divertite. La nostra insegnante ci fece vedere delle fotografie artistiche che rappresentano le bellezze di Milano. Ci fece vedere anche dei pezzetti di legno, di noce, di abete e di altri alberi. Al dopo pranzo abbiamo scritto questo diario che poche lezioni ci ha dato. ci diede da studiare la poesia Il Oriente, che io so già, e leggere i capitoli Il Noce e l'Abete, Betlemme e il Natale. Per fortuna, quest'anno, niente compiti. Questo è un diario originale, vorrei tanto farvi vedere la grafia di questa donna, ma credo che non sia il caso farlo, perché insomma è una cosa molto privata. Ve l'ho letto solo un pezzettino. 349-238-6666, sempre per invogliarvi a scrivere una storia, se avete voglia, e mandarcela. Voi siete qui, @radio24.it. Questa è la storia di una fuga dal Natale, questa è la storia di Gabriella. Alla fine mi ci sono ficcata in questa cosa. Ne avevo una paura tremenda, ma l'ho fatta. Semplicemente non volevo passare il Natale tra panettoni e palline colorate. E così, vai. Un click, una prenotazione a scatola chiusa per uno di quei viaggi dove incontri il resto del gruppo in aeroporto. Non reggo le palline di Natale, gli addobbi di Natale, le luci intermittenti e il cibo, il tanto cibo. Quell'anno avevo proprio bisogno di andare via, non sarebbe bastato chiudermi in casa e fare finta di nulla. Sto pensando che se uno vuole può anche superare i propri limiti, però non si deve illudere più di tanto. I nostri limiti prima o poi ci riprendono. Mi rigiro tra rimorsi di ogni tipo mentre, seduta su un pulmino, guardo i miei compagni di viaggio. Per lo più romani ottimisti e veneti in perfetta forma fisica, che si allontanano sulle piste sabbiose del deserto marocchino. Alla mia sinistra un foglio di giornale in lingua araba sul finestrino per proteggermi dal sole, e alla mia destra, alla guida, Ahmed, il nostro autista originario di Fez. Gli abbozzo un sorriso, così, tanto per sembrare gentile, ma in realtà mi viene da piangere. Ho la febbre. Oggi un potente virus intestinale ha costretto me e il mio gruppo a diverse tappe non previste lungo le strade polverose che tagliano villaggi fantasma a sud della catena dell'Atlante. Rimaniamo lì un bel po' a guardare una strada dritta che separa l'inizio del deserto dal resto, che un po' deserto lo è già. Il paesaggio intorno è completamente nuovo e lo stato febbricitante svapora e scontorna ogni cosa. Inizia una conversazione con Ahmed. È allegro, è quasi divertito dalla situazione. Mi dice di non preoccuparmi, andremo in un albergo poco distante. Ci arriviamo, l'edificio è in pieno stile Mille e una notte. Costruzione bassa, divanetti lungo i lati di ogni parete a segnare una serie di stanze che si sviluppano come in un piccolo labirinto. Evidentemente ho chiesto troppo al mio fisico. Non mi reggo più, ho bisogno di un letto, due tachipirine messe in valigia alla partenza e 2 ore di sonno. So che mi restituiranno quella stanza d'hotel più fresca e più riposata. Una doccia calda e il canto del muezzin staccheranno definitivamente il mio contatto con la realtà. Mentre indugio nell'essenzialità di questa stanza, bussano alla porta. La cena è pronta. Eccomi qua. Da sola, di fronte a un riso in bianco quasi freddo, in un'ampia sala abbellita con divani ricoperti di stoffe e cuscini colorati. All'estremità opposta alcuni uomini marocchini neanche si accorgono della mia presenza. Mangiano tagine con le mani e parlano di qualcosa che dal tono potrebbe essere decisivo per le sorti dell'umanità. Sembrano vagamente incazzati. In un angolo della sala, un albero carico di palline e luci colorate, che non c'entra nulla con il resto della scenografia. Non c'è niente da fare. Il Natale ti segue anche se cerchi di sfuggirgli. È un posto abbastanza vicino e meno freddo che non dove abito io, quindi ho scelto questa vacanza anche perché aveva un prezzo abbordabile e non volevo farla con qualcuno che conoscevo già, così ho scelto questo tipo di viaggio dove si conoscono i compagni di viaggio all'aeroporto, alla partenza. Dopo qualche boccone chiedo al cameriere di liberarmi dalla vista del cibo. Mi sento in imbarazzo, per cui mi alzo e vado a prendere un po' d'aria. Ahmed mi raggiunge fuori dall'albergo. Iniziamo a camminare e a parlare e lentamente ci inoltriamo nel deserto. Alcuni cammelli riposano sparsi nei pressi dell'albergo. Non so più come si è svolta la nostra conversazione. Poche cose su di noi. Nessuna voglia di raccontarsi le proprie vite, troppo distanti e difficili da spiegare. Giochiamo su una duna e sprofondiamo nella sabbia. I nostri gesti sono spontanei. Mi sento distante da me stessa e quasi sospesa. A un certo punto ci guardiamo in silenzio, come chi non ricorda più le regole del gioco e cerca di capire nello sguardo dell'altro chi farà la prima mossa. I nostri gesti anticipano i pensieri. Al risveglio di quella notte ricorderò il ritorno all'hotel scalzi, la sabbia nel letto e il sonno lieve a separare la mia favola dall'alba. È tardi, i miei compagni di viaggio potrebbero essere già tornati e stare lì ad aspettarci. Ahmed non se ne preoccupa. Dopo colazione vuole tornare a fare due passi. Ora i colori sono netti. Il blu del cielo e il color oro della sabbia sono lo sfondo della nostra corsa sulle collinette. Gli scatti ci restituiscono così, tra le risate, leggeri e pronti a dimenticarci. Nelle gerati le nelle castigli le fereni, nelle gerati le ammetto che anche io ho avuto la tentazione di fuggire dal Natale. Parlo proprio di questo Natale qui, di domenica scorsa. Sono stato in onda fino a venerdì, che era il 23, e ho pensato che in quei due giorni liberi lì, cioè la vigilia e il 25, sarei voluto scappare il più lontano possibile per non sorbirmi le solite menate di feste e controfeste. Poi fortunatamente venerdì sera, dopo la diretta, con la radio già mezza vuota, mi sono accorto che sarebbe stato non solo sbagliato, sarebbe stato proprio stupido fuggire da una cosa da cui non si sfugge, perché quella cosa sta molto più a fondo di quanto io mi immagini. Quindi il giorno dopo ho fatto un po' di acquisti, poi sono uscito di casa, ho preso la macchina e ho fatto quello che ho sempre fatto e che alla fine sono stato felice di fare. Ho raggiunto la mia famiglia in montagna. Sono in montagna, sono con la mia famiglia e domani è Natale. Mi infilo un maglione da montagna, vado in soggiorno. Mia nonna sta mandando un SMS col suo cellulare. Mia mamma armeggia in cucina mentre mio padre la aiuta. Mia sorella litiga con il Lele, suo marito, per la composizione del presepe. Lui sostiene che i re magi vadano posizionati sin da subito insieme agli altri. Mentre lei dice che no, che arrivano solo il giorno della Befana. Matteo, scusa, tu che hai fatto il seminario, quando arrivano i re magi? Suona il telefono di mia nonna. Lei risponde e comincia a parlare in dialetto. Saluto una serie di persone che evidentemente si stanno passando la cornetta al di là del telefono, l'un l'altro, per fare gli auguri. Mia mamma annuncia che è pronto. È solo il pranzo della vigilia, ma sembra già quello di Natale. Mia nonna chiude la telefonata e inveisce contro tutti i parenti e i loro auguri ipocriti. Intanto mia sorella e suo marito hanno trovato un accordo. Un re mago davanti alla capanna, uno in fondo al presepe e l'altro li raggiungerà solo dopo Capodanno. Mi siedo a tavola mentre alla televisione il Papa benedice in uno strano italiano tutti i presenti e forse pure noi che siamo lì a casa a guardarlo. A mia nonna suona di nuovo il cellulare. Mia mamma glielo spegne nervosamente. Basta con sto telefono! Poi si siede, ci guarda uno per uno e dice: oh, finalmente tutti insieme. Dopo pranzo arriva il momento dell'albero. Mia sorella sale dalla cantina con una scatola lunga e stretta coperta di muffa. Fa un odore insopportabile. Ne tira fuori una cosa verde piena di aghi di plastica spettinati. Sembra un porcospino che si sveglia dopo una sbronza. È l'albero di Natale. Mio papà sta spolverando le palle rosse e bianche da appenderci sopra. Io guardo l'albero che ora è aperto con tutti i rami stesi e sembra veramente chiedere pietà. È quello di quando eravamo piccoli, mi dice mia sorella orgogliosa. Beh, Titi, un po' si vede, Mi propongo di andare a prenderne uno nuovo per festeggiare questo Natale. Fuori dalla finestra c'è un intero bosco di pini. Esco, prendo un badile e comincio a scavare intorno alle radici di un abete. Mi arriverà all'altezza delle spalle. Rientro in casa con la mia preda sulla carriola, felice, finalmente, di aver contribuito alla causa natalizia. E improvvisamente sento un urlo alle mie spalle. Dalla cucina appare mia sorella indemoniata, che non so come sia il demonio, ma la immagino proprio così, come mia sorella in quel momento lì. Si inginocchia davanti all'albero e, accarezzandolo sugli aghi, inizia a parlargli, come fosse al capezzale di un moribondo. Tiene un sermone di 10 minuti sulla meschinità dell'essere umano che piega la natura ai suoi desideri più infimi. Parte dal buco dell'ozono per arrivare alla futura glaciazione che il mio gesto causerà. Gli versa dell'acqua da una brocca, manco fosse una balena spiaggiata. Io intanto guardo allibito Emanuele che scuote la testa come a dire: tranquillo, non è niente. Io cerco di sdrammatizzare dicendo che il bosco ne è pieno. Mio papà le promette che lo ripianteremo appena finito il Natale e così facciamo pace. Dopo un'ora la casa è pronta per Natale. Ecco, ora però, guardando gli addobbi della casa, mi sembra di riuscire ad immaginare come potrebbe essere Carnevale, non Natale. E mi domando se serva davvero tutta sta scenografia per passare una giornata o due come questa. se debba per forza essere la vigilia di Natale per stare insieme in questo modo. In fondo credo che sia un po' come quando vai al cinema. Ti siedi, si spengono le luci e appaiono le prime immagini. Tu ti dimentichi il mondo fuori e hai voglia di vedere la storia che sta per passare sullo schermo. Sei pronto? Insomma, sei ben disposto. Ecco, qui è lo stesso. Entri in casa, vedi l'albero, senti il profumo del cibo, guardi la tua famiglia e semplicemente, che sia Natale oppure no, hai semplicemente voglia di volergli bene. I don't wanna settle down, I just wanna play my music in this cold and empty house. I don't wanna stay, I got too much in here going on. It's driving me insane, I gotta go. Insomma, in un modo o nell'altro più o meno tutti abbiamo avuto il desiderio di fuggire dal Natale e poi magari l'abbiamo assecondato questo desiderio e magari no. Io credo che il racconto che mi ha mandato Gabriella non riguardasse questo Natale, quindi mi sa che questo Natale Gabriella è stata a casa. Pronto Gabriella? Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Beh, insomma, me la cavo. Senti, la prima domanda è: questo Natale cosa hai fatto? Questo Natale non sono fuggita, sono stata a casa. Oh, quindi ti sei sciroppata tutto? Sì, tutto. Il che vuol dire? Voi cosa fate? Questa è la tipica domanda che si fa, tipo la differenza tra nord e sud. Voi cosa fate? La vigilia o il pranzo? Noi il pranzo, così è più facile, diciamo. No, ma noi inteso come famiglia o noi... Sì, mi ricordi, sì, sì. Tu sei del Langhe, no? Sì, più o meno, sì, Roero. Sì. Una zona molto vicina alle Langhe. Il Roero, da cui ovviamente c'è un vino. Ho detto un'enorme banalità, no, perché no, è vero. Beh, ho capito, però qualsiasi zona ovviamente lì ha un vino. Certo, quindi non potevi sbagliarti. Senti, tu sei stata in Marocco in quel viaggio, sì. Quindi alla fine era proprio il Marocco. Ed era, visto che è uno di quei viaggi, l'hai detto un paio di volte, in cui si incontrano i compagni di viaggio in aeroporto, era avventura nel mondo? Era quello. Era quello, perfetto. Era quello. Che è esattamente tipo il gradino appena prima del reparto psichiatrico, esatto. Appunto, uno si può buttare con una pietra al collo in un cinema, come diceva De André, oppure può prenotare un viaggio con Avventure nel Mondo. Saranno felicissimi quelli di Avventure nel Mondo nel sentirci descrivere così le loro avventure nel mondo. Beh, hanno un potere terapeutico, non è da tutti comunque. Tu perché se hai voglia di raccontarmelo? Era un periodaccio? Sì. Aspetta, sì. Te lo dico io, eri stata lasciata dal fidanzato? Ma non era neanche il fidanzato, figurati, quindi peggio. Quindi peggio ancora. E al lavoro come andava? Al lavoro male, perché sarebbe andata ancora peggio, non sapevo neanche cosa mi aspettava dopo. Quindi sì, era proprio un periodo da viaggio avventure nel mondo. E quanto prima l'hai prenotato? Pochissimo prima, perché se ci avessi pensato di più non l'avrei fatto. Tipo una settimana prima, era già... Area molto natalizia. Ma il viaggio però è stato bello alla fine, il viaggio, non si è divertita? Sì, no, il viaggio alla fine è stato bello, è stato molto divertente, quindi mi ha sorpreso piacevolmente. Dimmi dei compagni di viaggio, cioè tutti disperati che si trovano su quel pulmino o su quell'aereo. Sì, però disperati in modo molto vario, quindi era anche divertente, cioè ce n'erano un po' di tutti i colori, di tutti i gusti. Ma tra l'altro... Esatto. Centro. Tra l'altro in questi viaggi si arriva da tutti, come funziona? Da tutta Italia ci si incontra in un aeroporto, sì, giusto? Siamo partiti da Milano e chi partiva da Milano si è ritrovato all'aeroporto, ha fatto lo stesso volo. Poi altri sono partiti da Roma e quindi li abbiamo incontrati poi all'aeroporto, all'albergo a Casablanca. Ok, senti, ma chi fa questi viaggi avventura / disperazione e poi li rifà oppure, nel senso, ci si affeziona? Sì, li rifanno. Li rifanno? Parli di loro alla terza persona plurale. No, perché appunto ho fatto un sondaggio ed ero tipo la novellina del gruppo, però erano tutti anche al 20° viaggio con avventure nel mondo, quindi poi si prendono bene, significa che la disperazione continua. Oddio, mi faranno... Ma scusami, non potrai mai più viaggiare con loro ovviamente, questo no. E manco io. Tu mi ricordi che lavoro fai? L'insegnante. Ok, quindi sei in ferie, le scuole chiudono, no? Per tutto sì, il periodo natalizio. Chiuse. Insegnante di, perdonami? Di lettere. scuole medie. Scuole medie. Ma sì. È più complicato fare le scuole medie o le superiori, l'insegnante? Non ho mai fatto le superiori, però suppongo nella scuola media, cioè questa è una mia opinione. Che cosa stai facendo in questo periodo? Prima di Natale qual era l'argomento, come si chiama, il programma? Il programma, dunque, stavamo facendo antologia, l'articolo di giornale, il giornale, perché abbiamo un progetto con un giornale che è abbastanza importante, c'è una pagina. Qual è? Diccelo, Corriere della Sera. Repubblica. Repubblica, chioccio la scuola, praticamente una piattaforma dove ogni scuola può caricare i propri articoli, gli articoli degli studenti, quindi una specie di giornale online. Senti, Gabriella, poi ti devo salutare, purtroppo, o per fortuna per te, dipende. Adesso questi viaggi non li fai più, hai uno straccio di fidanzato, non ce l'hai? Dunque, viaggi no, non li faccio più per adesso. Non ho azzeccato una domanda, Gabriella, incredibile, proprio non ne ho beccata una giusta. Lo straccio di fidanzato, non so neanche ancora se siamo fidanzati, quindi c'è uno straccio, ma non so se è di fidanzato. Va bene, fatevi un viaggio magari. Dai, ci proviamo, magari sì, può essere una buona idea. Guarda, passa pure un treno, ecco, perfetto. E allora io ti ringrazio moltissimo, Gabriella, ti faccio gli auguri per un buon 2012. Anche a te. Ciao, grazie, ciao. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Gabriella, ovviamente è nella sua fuga, quindi si trova nel deserto ufficialmente. È veramente Gabriella, grazie per averci mandato questa foto, perché sembrano le foto, se ci fossero delle cartoline da spedire agli amici in cui si è i protagonisti, questa sarebbe quella cartolina lì. Gabriella è proprio in posa, con maglietta a maniche corte, maglione o giubbotto arrotolato in vita, a testimoniare che anche se è dicembre in Marocco si sta bene in maniche corte, e alle sue spalle le dune del deserto. Proprio, avete presente il deserto come ve lo immaginate quando immaginate il deserto? Un po' arancione, con delle dune in lontananza, e soprattutto l'elemento migliore di questa fotografia è alla sua sinistra, in un equilibrio perfetto con lei e le dune, un bel cammello. 349 o forse un dromedario. Com'è la storia? Il cammello è a una gobba? Due. Stefania dice due. E il dromedario una. Però, astia, questo è proprio in fila, cioè è preso da dietro, quindi non si vede se ne è uno o due. Vabbè, Gabriella, se stai ascoltando e ci dici se è un cammello o un dromedario, oppure andate a vedere sul sito radio24.it, la pagina Voi siete qui, e c'è la foto di Gabriella e magari capite se è un cammello o un dromedario. Ma anche poi, chi se ne frega, 349-238-6666. È arrivato un messaggio di Rosario che dice: io non ci sono mai riuscito a fuggire dal Natale. A novembre mi capitava di pensare di partire, poi però non riesco mai a stare lontano dai miei. Che carino che sei, Rosario. Esther, sono andato a trovare mia nonna al centro dove sta... Al centro, immagino, al centro per anziani. E l'ho trascorso con lei e le persone che vivono lì. È stata una bella fuga. Ricordo benissimo quando sono andato la prima volta a trovare mia nonna, che adesso sta a casa, in uno di questi centri. Io devo dire, mi stavo per mettere a piangere. Pietro, io e la mia fidanzata stiamo fuggendo ora. Oh, qualcuno che se ne sta andando in questo momento. Siamo in macchina verso Fiumicino, dove ci imbarchiamo per un volo verso il Madagascar. Madagascar, quindi parliamo di Africa, giusto? Parliamo di isola a destra dell'Africa, cioè isola, voglia, uno stato. In Madagascar ci sono, questo la so, ci sono degli animali che non ci sono da nessun'altra parte. Di là ridono perché ne so una ogni tanto. Si chiamano lemuri e sono delle scimmie. Niente, Stefania, i lemuri, avete presente nel film Madagascar, proprio? Ci sono questa specie di... Vabbè, dopo cerco su... Se qualcuno sa dirmi qualcosa di più sui lemuri, so che sono tipo delle scimmie proto... 349. Allora, sappiamo che ci sono i lemuri, ma non sappiamo molto d'altro sui lemuri. So che nel film Madagascar sono quelli che... sono quegli animaletti simpatici. Vabbè, 349-238-6666. Visto che una cosa che succede prima di andare di entrare in onda, e visto che oggi la radio è chiaramente semideserta come tutti quanti in tutti questi giorni, io ho raccontato che sono espertissimo di film di Natale, perché a casa mia c'era questa usanza il giorno di Natale di vedere un film. Alcuni escono e vanno al cinema, invece a casa mia si vedeva un film, e quindi in 35 perché un Natale l'ho saltato, che ero via, ho visto praticamente tutti i film sul Natale. Allora, non solo io, certo, ho visto tutti i film su Natale, cioè insomma, tutti quanti probabilmente vedono dei film a Natale, ma tant'è, in redazione ero solo io. E quindi è nata questa specie di gara per cui Paolino Corleone e Tiziano Bonini hanno deciso che mi faranno sentire dei pezzi tratti da dei film sul Natale e io li indovinerò. Siete chiaramente invitati a farlo anche voi, 349-238-6666. Io a questo punto partirei con... quanti sono, scusate? 8! No, sono troppi. Vabbè, partiamo con il primo, vediamo come va. Mi pare che manchi qualcosa. Cosa ne pensi, tesoro? Altre campane? Sì, più campane, ok. Mamma, credi davvero che dovremmo fare questa festa? Certo che sono convinta che dovremmo fare questa festa. È esattamente quello di cui abbiamo bisogno per mettere le cose a tacere. Ma questa non è una roba di Natale. Come prima. È di Natale? Hai ancora delle campane, tesoro? No, allora, però aspetta, non è che vale che se trasmettono un film il giorno di Natale io lo devo sapere. Abbiamo detto una roba natalizia. Non mi viene in mente. Potrebbe stanno facendo l'albero di Natale. Potrebbe essere Natale sulla 52esima strada. No, esiste un film che sia Natale sulla 52esima strada. Mamma, ho perso l'aereo. No, niente. Vabbè, andiamo. Non l'ho presa. Andiamo oltre. In ordine alfabetico. Signora al barco Spille Bodio. Io... Ti odio! Vabbè, ma ragazzi, però uno... Odio pure te. Odio. Questo è un film vecchio. È un film vecchio questo? Odio totale. Ma cos'è sta roba qua? Ah, aspetta, sì, forse ho capito. È quello... Però non è un... Quindi non è un film bianco e nero. È un film a colori. C'è... Ho capito. C'è... Ace Ventura. Come si chiama lui, l'attore? Jim Carrey. C'è Jim Carrey. È il Grinch. Ce l'ho. 349-238-6666. Qualcuno invece mi scrive SMS che quello di prima è Edward Mani di Forbice. Giusto? Vabbè, vale lo stesso. Andiamo... Vai con l'altro, Paolino. Banna montata! Precisamente. Ma non ha senso. Ma cos'è? Per tua informazione, ragazzina, la panna montata può essere tale solo quando la si monta con la frusta. È una cosa che tutti sanno. Questo è il doppiatore di... Ce l'ho, non mi viene il nome manco dell'attore. Però è la fabbrica di cioccolato? Guarda. 349-238-6666. Sto cominciando a intripparmi con questo gioco, quindi andiamo avanti. Levati dalle scatole. D'accordo, John. Ma i miei soldi? Quali soldi? Easy ha detto che avevi un po' di grana per me. Ah, sì? E quanto dovrei darti? Easy ha detto il 10%. Peccato che Easy non comandi più niente qui. Questo è mamma perso l'aereo. Ah, ce l'ho! Adesso di sopra a fare un bagno. Però... Ti parlo io quando scende. Ehi! Intanto vorrei farti una proposta, Cobra. Sì, ma pezzi più difficili, però, scusami. Cobra. Ti do il tempo di... Questi sono i due ladri, giusto? Per far sparire la tua brutta faccia gialla dalla mia proprietà. Prima che ti riempia le budella di piombo. Va bene, Johnny, scusa. No. Me ne vado. 1, 2, 10. Giusto, questo è il film della televisione che lui manda per far paura agli altri. Benissimo, ai due ladri che sono in casa. 349-238-6666. Mi dicono che non è azzecco uno, ma non è vero, andiamo avanti. Una vecchia tradizione vuole che il giorno di Natale una grande festa sia data nella sala della servitù per chi lavora nel castello. Quest'anno i festeggiamenti invece hanno luogo qui, nella sala grande, per volontà di mio nipote e mia. Ce l'ho questa. Questo è il piccolo Lord. Questo è il più felice Natale che io abbia mai avuto. Che tristezza questo film! Non posso pensarci minimamente. Che malinconia. È l'incompreso, no, l'incompreso. L'incompreso era... Ma non era un film di Natale, però, l'incompreso. O però veniva mandata a Natale. Ma è lo stesso attore che fa l'incompreso. No. Lo stesso attore... È vero che è morto drogato l'attore che faceva Piccolo Lord? No, però mi piace. Ma tutti i giovani attori che diventano famosi poi fanno una brutta fine. Dai, andiamo avanti. Ci abbiamo tempo ancora. Sì, vai. Se osi avvicinarti, io ti dilanio con i miei artigli. Chi sei tu? Io mi chiamo Gmork. Ma è Signore degli Anelli. Chiunque tu sia, avrai l'onore di essere la mia ultima vittima. Ma che paura che fa sta roba. Non ti sarà facile uccidermi. Io sono un guerriero. Io avevo 7 anni quando è andata sta roba? Guerriero, combatti il nulla allora. No, come faccio? A sette anni, quindi era dello, dello... Ah! È la storia Atreyu. Aspetta, Troia è Atreyu è la storia. È l'imbecille. È la storia. Quello, il cane volante. Il cane volante. La storia infinita. Atreyu. Questa non la sapevo. No, questa non vale. 349-238-6666. Claudio mi dice: sto tornando a casa, ora sono stato 3 giorni sugli sci. Ma chi se ne frega, scusa, siamo sul pezzo, siamo sui film. L'ultimo, ce l'abbiamo, l'ultimo. Vai. Bello anno a lei. Buon anno a lei. In questa è una poltrona per due. Ce l'ho. Un'altra. Io devo tutto a George Bailey. Aiutalo tu, signore. Gesù. Questa è la sua memoria, Maria. Gesù Giuseppe Maria. Salvate. Questa è. Aiuta mio figlio, signore. La vita è meravigliosa. Se non avete visto un film di Natale, prendetevi il DVD La vita è meravigliosa adesso. E potete piangere per i prossimi giorni fino a Capodanno. Abbiamo già finito. Io volevo leggere un ultimo messaggio. Pasquale da Napoli. Io il Natale non ci penso nemmeno a saltarlo o a fuggirlo. Inizio ai primi di dicembre a preparare albero e presepe, poi appendo il calendario dell'avvento in cucina e ogni mattina scopro la sorpresa che c'è sotto il lumerino. Quanta gioia e quanta malinconia. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Stefania Tagliaferri. Grazie anche a Stefano D'Andrea e a tutti quelli che, nonostante fosse il 28 di dicembre, erano qui. La storia di oggi era la storia di Gabriella e parlava di fughe. Quella di domani è la storia di Riccardo e parla di ricevimenti e celebrità. L'occasione era unica. Un po' però mi vergognavo di quell'entusiasmo infantile, di quella voglia un po' insana di ficcare il naso in un mondo che non era il mio. Un mondo intravisto fino ad allora solo attraverso le lenti distorte della televisione, un mondo fatto di lusso, di vanità, un mondo vuoto, che un violinista universitario idealista, come me, non esitava a giudicare con una certa orgogliosa sufficienza.